Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta. Giorni d'estate a cavallo del Ferragosto, occasione buona per pescare, come sapete, qualche perla dal cassetto di tutti i convocati di questa stagione. Giorgio De Luca, ovviamente, il nostro autore che ferire non ne fa mai, e oggi che onore, Filippo Aureggi in regia. Ma che succede? Allora, oggi puntata dedicata alla stagione del ciclismo, che ovviamente non si è ancora conclusa, ma molto già lo abbiamo visto, quindi... facciamo un passo indietro e poi vi faccio sentire qualche perla per l'appunto, e poi vi prendiamo lo slancio per il finale della stagione. La nostra voce del ciclismo, sapete anche voi chi è, Pier Augusto Stagi, direttore di Tutto Bici. Ciao! Ciao Carlo! Come stai? Bene, tu? Molto bene, molto bene. Tra poco risentiremo quella... Siamo tutto l'ombrellone, no? Bella vita che fai tu. Tu e il nostro amico Cristiano Gatti, che salutiamo con grande affetto in questi giorni di Ferragosto, ma lui è sempre in vacanza. Comunque, mio caro, stagione che abbiamo vissuto fin qui, dalle classiche del nord che ci hanno un po' depresso, a un Giro d'Italia che felici non ci ha lasciati, a un tour, tra poco risentiremo la chiacchierata che abbiamo fatto con Davide Cassani, commissario tecnico della nostra nazionale, il giorno dopo la chiusura di questo Tour de France. Anzi, sai cosa ti dico? Partiamo dalla fine, da quello che ascolteremo tra poco, perché in questa chiacchierata, lo risentirete, Davide Cassani ha buttato lì una provocazione che ha fatto molto discutere, di cui poi ho parlato con vari amici che hanno come noi il ciclismo nel cuore. La proposta di eliminare le cronometro dai grandi giri, ovviamente proposta limite, estrema, appunto provocazione. Non voglio tanto discutere di questo, tanto poi sapete, risentirete cosa ci siamo detti. Io ho avuto giorni fa un ascoltatore che ha proposto, invece di eliminare il cronometro, facciamo una bella crono il sabato che precede il giorno dello champagnino in bicicletta, cioè il giorno dell'arrivo. Una bella crono scalata di 40 km sul mortirolo o simili. E Giovanni Bruno, con cui ho parlato di questo argomento, ha proposto anche dei cecchini Ustascia croati appostati. Da un limite all'altro, abbiamo detto che le crono fanno parte del ciclismo, di questa specialità, quindi sono untouchable. Però io ti butto in un'altra provocazione, visto che tu mi insegni, le squadre, ad esempio la Sky, sono sempre più importanti nel ciclismo di oggi. Mettiamo piuttosto un salary cap, un fair play finanziario, quella buffonata che hanno cercato di introdurre nel calcio per ridurre la potenza di questi squadroni. Ma Carlo, io la penso un po' come te, che mettere delle limitazioni non è mai bene, quindi no, mai. Anche un limite nella salary cap, luxury cap, chiamala come vuoi, non è mai, piuttosto inciderei, sono più convinto che invece, ma l'UCI si sta spostando, sta ragionando su questo argomento, già dalla prossima stagione ridurrà il numero dei componenti delle squadre, invece che 9-8, sembra poco, però intanto 8 corridori, metti che in un grande giro ti può capitare di perdere uno o due uomini, beh, cambia tanto. Certo che poi abbiamo visto, è un 20% alla recente Tour de France, un corridore come Michael Kwiatkowski, che è uno che in questa primavera ci ha deliziato vincendo una volata pazzesca, se te la ricordi, con Petter Sagan a Milano-Sanremo, e poi era là, no, nel mese di luglio, a mulinare come non mai in testa al gruppo e a massacrare tutti, perché Kwiatkowski non ha solo massacrato il nostro povero Fabio Aru, Romain Bardet, Barghil, Contador, chi vuoi tu, ma ha massacrato almeno un paio di corridori anche della sua squadra, perché Michel Nieve e Henao, tanto per farlo, non hanno mai fatto il loro lavoro, non sono mai riusciti ad arrivare al momento. Avrò bisogno del motorino, dire, adesso Piero. Tocca a me, adesso tocca a me, perché loro si staccavano, andavano in ebollizione e ciao ciao, faceva tutto il grande Michel Kwiatkowski, che a questo punto infatti mi ho anche scritto e detto, sì, tanto so. Mi dà tanto se ci lavorano un po', questo qui è il futuro Froome, perché va fortissima cronometro, ha un buon spunto veloce, tiene in salita perché lui si staccava a 5 km dal traguardo, se il Team Sky ci lavora un po', questo è il vincitore del Tour dei prossimi 2-3 anni dopo Froome, quindi la vediamo malissimo. Anche perché, fratello mio, tu sai benissimo che in ogni sport le dinastie sono una specie di condanna a morte, no? Quando tu sai che la tua Juventus vince per 6 anni lo scudetto, tu sarai contento, ma sportivamente parlando è una specie di condanna a morte. Morte, lo stesso vale per qualunque sport. Dici una profonda verità, certo, sportivamente, diciamo, oggi tutti raccontiamo Schumacher, quello che ha fatto nella Formula 1, di Federer, della Juve, di Eddy Merckx, no, dei grandi trionfi, però è vero che in quel periodo lì, quei 5, 6, 10 anni, dove tu becchi Battoste dalla sera alla mattina e questi dominano, cioè sono i cannibali, anche se devo dire che Roger Federer non è un cannibale, no, tutto fuorché cannibale, no, ma a me piace da morire e sono felice che lui sia tornato a vincere Wimbledon e l'abbia vinto per l'ottava volta, però è vero, lo dici tu, non è il massimo per lo spettacolo, poi nei prossimi 10-20 anni racconteremo come sono stati forti quelli di Sky, racconteremo gli anni d'oro della Sky, ma in questo momento subiamo e patiamo. Però c'è un altro aspetto molto curioso e molto interessante, se vuoi, quasi andiamo in antropologia dello sport. Froome, come ai suoi tempi, prima LeMond e poi chi è Amstein e poi ovviamente la saga di Armstrong, hanno portato il ciclismo in un luogo che per il grande ciclismo era sconosciuto, come gli Stati Uniti. Lo stesso si può dire per Froome con l'Inghilterra, con una scuola inglese che, figurati, se ti dicevo 10 anni fa, guarda Pier, che ci saranno dei grandi corridori in Inghilterra, mi sputavi in faccia. Sì, e invece pensa che roba, negli ultimi 6 anni 5 volte hanno vinto l'inglese. Noi abbiamo avuto negli anni 60, tutti si ricordano, comunque hanno sentito parlare, anche perché poverino oggi viene ricordato per la morte Tommy Simpson, no? Sì, il baronetto del ciclismo britannico, ma è stata proprio una mosca bianca, un'eccezione. Una stella cometa. Una stella cometa, bravo. Oggi invece è altro che stelle e comete, qui ci sono pianeti che ruotano attorno, mutano, cambiano e ritornano e fanno quello che vogliono. Siamo diventati noi della polvere attorno a questi pianeti. Però è anche vero, Carlo, che ti dico, è fatto a periodo, no? Dice, però gli inglesi ci hanno portato nella telemetria. Io dico sempre, già Bartali Coppi c'è un salto, Bartali è stato veramente l'ultimo grande di un ciclismo fatto in casa naif. Coppi arriva e porta l'alimentazione, le divise e i ritiri, perché prima di lui non esistevano neanche i ritiri in Riviera, poi sono diventati di moda. Poi Francesco Moser, 1984, il ciclismo scientifico lo porta in un'altra dimensione e poi arriva il ciclismo americano, appunto adesso arriva quello inglese della telemetria, del controllo dei watt, della VAM, della velocità media funzionale, si va avanti, signori, e ognuno di noi ci mette qualcosa. Senti, allora noi dobbiamo attrezzarci. Senti, Pier Augusto, al cielo abbiamo già Aru. Guarda, allora ti chiedo una cosa. Lo diciamolo con orgoglio. Ma Italia. Certo, ma sicuro. Ma noi siamo una scuola antica, belgi, olandesi, sono le scuole da cui è nato il grande ciclismo. Ti chiedo un'ultima cosa. Dove sarà la prossima frontiera, secondo te? Dove la vedi la prossima frontiera? La prossima frontiera, sai dove la vedo? È un po' come anche per il calcio. Nel calcio sono più avanti. Però io la vedo nell'Africa, prima ancora della Cina. Perché sta crescendo tantissimo. È un mondo nuovo, è un mercato nuovo. D'altra parte, lo sport, come l'economia,

obiettivi simili a quelli che ha raggiunto Nibali, questo è fuori discussione. Sì, lo speriamo tutti. Vediamo, anche se... vediamo. Cioè, comunque io penso che è un momento difficile per il ciclismo italiano, ma potremmo anche uscirne.